e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo L'altra Europa. Benvenuti all'Altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa che ci piace raccontare, tratteggiare, fotografare, attualità europea che viene seguita puntualmente ogni settimana da Radio 24. Il sabato troviamo uno spazio anche per raccontarvi un'altra Europa, quindi andare alla ricerca di altre notizie, di altre attualità, di altri punti di vista. Un programma in collaborazione con il network europeo Euronet, di cui oggi anche parleremo in modo diffuso. Siamo in diretta anche su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, le nostre pagine che aggiorniamo minuto per minuto, oppure ci trovate via sms al 349-238-6666, oppure via email l'altraeuropa@radio24.it. Queste sono le coordinate. Il nostro viaggio parte da dove eravamo rimasti alla fine della puntata scorsa, cioè dal cuore della Norvegia. Lei si chiama Synnøve Bjørset, è molto conosciuta dalle parti di Fjärland, che è questo piccolo paesino che abbiamo conosciuto la settimana scorsa, un paese di 280 residenti, quindi veramente un villaggio piccolissimo che però ha una caratteristica, perché oltre ad esserci 280 abitanti, in questo paese ci sono 250.000 libri. È infatti un paese dei libri, quello che è nato in questa cittadina sulle sponde dell'imponente fiume Bojahori, questa più o meno dovrebbe essere la pronuncia, ma là sul posto abbiamo un'inviata. Lei è una guida turistica spagnola, ma parla anche italiano, e a lei abbiamo affidato il compito di raccontarci questa bella storia. Diamo il benvenuto a Leire De Pedro. Ciao Leire. Ciao. Eccoci qua di nuovo, come stai? Bene. Qui piove tantissimo, sono 3 gradi. Ah, attenzione, ma solitamente in questo periodo è la stagione tipica o è particolarmente freddo? È particolarmente freddo, sì. Questo inverno è stato particolarmente freddo e tanta neve, ancora abbiamo tanta neve. Ok, tu da spagnola quindi ti troverai benissimo in questo clima, immagino. Sì, benissimo. Ecco. Lere, prima di parlare e di raccontarci la storia di questa città dei libri, questa violinista è molto conosciuta in zona, e tra l'altro abbiamo appena pubblicato anche sulle nostre pagine in Facebook, c'è un video che la rappresenta, la si vede mentre suona, un violino molto particolare. Sì, il violino di Hardanger. Ma non solo è conosciuta nella Norvegia, è conosciuta anche fuori, in Spagna, Italia, nel mondo, sì. Ed è un violino... Perché è particolarmente bello questo violino, come suona. Mm-hmm. E anche perché è particolare, sì. Ho capito. E quindi insomma l'abbiamo scelta per rappresentare un po' le sì, musiche di quella zona della Norvegia. E avevi iniziato la settimana scorsa a raccontarci la storia di questo villaggio, un villaggio che appunto si poteva raggiungere solo attraverso un battello, dopodiché questo sì, battello era stato sospeso il servizio, quindi il villaggio è rimasto isolato, dopodiché un tunnel ha permesso alla città e agli abitanti insomma di raggiungere il resto del paese. Però appunto una volta costruito questo tunnel e quindi data la possibilità di muoversi, erano rimaste in essere tutte queste baracche, tutte queste casette, diciamo, che erano state utilizzate per il battello, giusto? Sì, anche non soltanto per edifici per il battello, anche l'antico edificio postale, anche una caffetteria. Allora, gli edifici vecchi sono usati adesso per i libri. Mm-hmm. Quindi è stato scelto, poi è stato deciso, appunto, ci sono questi luoghi che adesso sono rimasti inutilizzati, come renderli vivi, come ridare una nuova vita all'intero paese, e si è scelto appunto di partire dai libri. E anche se ci sono 280 abitanti, solo 280 abitanti, ci sono ben 11 librerie in quel villaggio. Sì, sono 11 vecchie librerie, vecchi edifici come librerie, e un'altra che è nuova perché non aveva posti per tutti i libri che arrivano a Fjärland. Adesso è un posto spettacolare arrivare a Fjärland e vedere tanti libri. E loro dicono che non sanno esattamente quanti libri, più divide 250.000 libri, loro dicono che sono 4 chilometri di libri. Perché si è scatenata una sorta di mania, nel senso che le persone possono donare libri al villaggio e questi libri vengono messi in vendita poi? Sì, perché ci sono tanta gente che è amante dei libri, anche perché se hai una casa e vuoi fare una limpiezza o vuoi comprare un'altra casa, andare un'altra, sempre ci sono i libri che non vuoi, ma non vuoi buttare via. Sì. Allora puoi andare a Fierlan e loro prendono i libri. Quindi 11 librerie, tra l'altro librerie tematiche, ogni libro costa 20 corone, poco meno di 2 euro, ma non solo, nel senso che... Non tutti, c'è un posto dove è un posto particolare, sì? Che è la Casa della Onestità. Sì? Allora, tu puoi entrare, non c'è nessuno, puoi prendere un libro, allora devi pagare 2 euro 20 corone, 2 euro e mezzo, e mettere in una cassa. C'è un posto dove puoi mettere la moneta, ma non c'è nessuno. Quindi nessuno controlla, questo non è un negozio, è appunto un posto dove ci sono libri in esposizione, tu puoi scegliere il libro che ti piace, lasci l'importo fisso appunto in un'apposita cassetta e te ne vai, quindi insomma anche un segno di civiltà. Ma questo è un edificio, il resto ci sono 11 edifici vecchi e uno nuovo, allora ci sono 3-4 persone lavorando nell'estate. Ho capito, tutto ciò succede prevalentemente in estate, tu fai la guida turistica, migliaia, sì, di turisti che vanno a vedere questo strano villaggio dei libri, vero? Sì, ma turisti individuali. Non turisti con quelli che guido io. Okay, quindi... No, con il bus no, perché è un po' difficile per vedere questo posto con 100 persone. E quindi insomma c'è bisogno anche di un clima raccolto. Qual è la pronuncia esatta del villaggio che io credo averla sbagliata sempre? No, l'hai detto benissimo, sì, Fierlan. Ah, perfetto, ok, mi sono sorpreso, sì. da me stesso. Grazie davvero, lei. Sì, perché è scritto, è veramente un Fierlan, perfetto. Grazie davvero, Leire. Copriti, che insomma fa veramente freschino. Ci ritroveremo, sì, sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao e buon sabato. Ciao, buon sabato. Europost-it. Pasqua in festa al freddo. La primavera e la Pasqua arrivano anche in Lapponia. Nei paesi di Karasjok e Kautokeino c'è il Festival Pasquale Lappone con celebrazioni tradizionali come matrimoni, battesimi e mercatini e con prodotti tipici dei Sami, popolo nomade di alcune zone della Norvegia, Svezia e Finlandia. Nel festival c'è anche tanta arte. È prevista una serie di concerti, più di uno per sera, per il 40° Festival Musicale Sami, ma ci sono anche spettacoli teatrali e una rassegna cinematografica. Prendete il maglione ed affrettatevi! Il festival dura dal 20 al 24 aprile. Per saperne di più, samiisterfestival.com. L'altra Europa, come raccontare l'Europa nella sua quotidianità, l'Europa che è ricca anche di curiosità, non solo di normative, di leggi, insomma, sono le varie Europe, no? C'è quella del palazzo, c'è quella di chi la vive, si cercano anche punti di contatto, perché questa Europa va raccontata. Questo lo fa l'altra Europa, questo lo fa Euronet, che è il network a cui apparteniamo, e oggi l'Europa si mette anche in vetrina e lo fa al Festival del Giornalismo di Perugia, questo appuntamento ormai fondamentale, insomma, nell'annata italiana, le migliori firme che si trovano per confrontarsi sul valore dell'informazione, per capire cosa sta succedendo e per capire anche qual è la chiave europea che si è trovata quest'anno al Festival del Giornalismo di Perugia. Ci colleghiamo con il nostro Gigi Donelli, che è proprio là a Perugia. Ciao Gigi! Ciao Federico, buongiorno, saluto gli ascoltatori. Non solo sono a Perugia, ma sono in Corso Vannucci, dunque nel salotto di Perugia, in una splendida giornata, quindi grazie a questa diretta mi hai portato fuori dalle sale, dove effettivamente i temi affrontati del giornalismo sono molteplici, per osservare questo spettacolare corso che, come dire, merita sempre di essere ricordato. Tra l'altro Perugia è già una città, insomma, bella, viva, insomma, c'è l'università che ha portato quest'area internazionale da anni, quindi credo che già nella sua quotidianità Perugia dà un respiro europeo e non solo, e in questi giorni si allarga anche. Assolutamente, beh, Perugia, come dicevi, è una città universitaria per antonomasia, direi, in quelle dell'Italia centrale. Effettivamente anche qui, insomma, il dibattito a cui hai accennato, che è un po' quello del raccontare l'Europa, ha ripreso e vigore in questi giorni. D'altra parte, condizioni perfette, visto le circostanze, visto la crisi italo-francese, visto le più volte richiamate mancanze del ruolo europeo, ecco, tutti questi elementi non hanno fatto altro che, diciamo, dare spunti, elementi di discussione. D'altra parte, parlare di Europa è sempre stata una faccenda piuttosto complicata, lo è stata perché l'Europa sa di burocrazia, perché il racconto europeo spesso viene confuso con quello delle attività delle commissioni, che voglio dire, così come è difficile raccontare le commissioni parlamentari italiane, non di meno lo è certo quella delle attività, anzi ancora di più quelle che si svolgono a Bruxelles. Ma naturalmente l'Europa è ben altra cosa, insomma, mi verrebbe facilmente da dire, basterebbe ascoltare l'altra Europa in cui racconti di persone, di condivisioni di problemi come quello dell'occupazione, ma naturalmente poi di una generazione, qui a Perugia se ne è parlato molto, di giovani europei che, insomma, faticano a trovare accesso al mondo del lavoro e che cercano sempre di più, al di là degli spazi nazionali, quindi una propria affermazione. Insomma, gli spunti non mancano, il dibattito ovviamente va avanti, le posizioni restano abbastanza lontane. Certo, tra l'altro il motto scelto dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia per questi giorni di Perugia è proprio raccontare l'Europa nei media con serietà, semplicità, emozionando ma anche divertendo, che è una strana commistione, no? Però la voglia proprio anche di emozionare, che è un po' la parola chiave per sentirla un po' propria questa Europa. Ma assolutamente, anche perché se ci pensi, spesso quello che emoziona sul piano europeo non viene considerato europeo, tanto per intenderci, parliamo dello sport, dell'attività culturale, beh, quello è cultura, ecco, l'Europa viene in qualche modo inchiodata a delle tematiche che sono quelle delle strettamente istituzionali. In realtà l'Europa è veramente ovunque. Un esempio che devo dire mi piace fare e che riguarda per esempio le spiagge, cioè in Italia adesso ricominceremo a discutere circa l'accesso demaniale, i costi delle spiagge, beh, quelle sono normative europee che subentrano e che richiedono quindi una riflessione anche dell'informazione sul piano europeo, ma così ce ne sono decine. Basta pensare alla pesca, in Adriatico ormai è condizionata dalle reti a rombo decise a Bruxelles, ma decise a Bruxelles, attenzione, decise a Bruxelles dai rappresentanti europei, tra cui quelli italiani. La commissione è lì che si è messa in mostra, tra virgolette, al Festival del Giornalismo per raccontare come l'Europa viene narrata anche in Italia. Tu parteciperai proprio alle 11.30 a un workshop che si intitola Parlare d'Europa. Sì, è proprio un classico, parlare d'Europa, l'Europa è notiziabile, cioè dal punto di vista dei giornalisti è chiaro che come dire, si vive, se vuoi storicamente, lo sai benissimo, una certa difficoltà appunto a comunicare dei temi europei. Beh, credo che in realtà attraverso degli strumenti di racconto, della cronaca, raccontare dei fatti, quindi non cercare di forzare delle realtà, perché naturalmente noi non facciamo il lavoro per la commissione, questo non è il nostro compito, è di raccontare la realtà delle cose e magari cercare di sottolineare laddove l'intervento europeo è determinante e magari anche criticabile, perché c'è anche un altro elemento che vorrei sottolineare, un po' concludere, c'è un po' sempre, insomma, con l'Europa c'è un rapporto molto radicale, o viene accusata di ogni colpa oppure viene elevata come una specie di icona. Beh, forse dovremmo arrivare al momento in cui poter parlare di Europa criticandola, ma in un senso, diciamo, propositivo. Certo, è costruttivo. Festivaldelgiornalismo.com è il sito ufficiale, euronet.eu invece è il sito di Euronet, dove Gigi Radio 24 è ben presente anche con un notiziario da un paio di settimane, giusto?

Ciao, buon sabato, vi ricordo Giovani Talenti pomeriggio. Oggi pomeriggio alle 13.30, adesso un euro post-it. Euro post-it. Dategli un nome. L'Unione Europea chiama a raccolta le menti creative con un concorso per trovare il nome al nuovo programma europeo di innovazione e ricerca. Il programma partirà dopo il 2013 e la Commissione Europea vuole che sia innovativo anche nel nome. Questo dovrà definire le nuove sfide europee per la ricerca che in questi anni dovrà affrontare i temi più vari, dalla sicurezza energetica e alimentare al cambiamento climatico fino alla lotta alla disoccupazione. Una giuria composta di esperti europei di ricerca e marketing selezionerà 3 idee. La migliore sarà votata online. Il vincitore volerà spesato a Bruxelles, alla Convenzione Europea dell'Innovazione. C'è tempo fino al 10 maggio per mandare una proposta. Trovate tutto su ec.europa.eu. Cercate la pagina della ricerca e il concorso You Name It. L'altra Europa è storia anche di sport, perché insomma lo sport è ricco di aneddoti, curiosità e storie che possono raccontare, possono dare spunti interessanti per respirare culture diverse. La storia di oggi è quella di una squadra di calcio molto famosa in Germania, prende il nome dal quartiere a luci rosse di Amburgo. La squadra è quella del St. Pauli. Per capire perché è una storia curiosa, abbiamo invitato un giornalista e blogger tedesco, appassionato di calcio tedesco e italiano. Diamo il benvenuto a Kai Tippmann. Ciao Kai. Ciao. Ciao. Allora, perché parlare del San Pauli? Una storia, credo, unica nel panorama calcistico europeo. Sicuramente unica nel panorama calcistico tedesco e un po' anche europeo, perché è una delle pochissime tifoserie schierate anche politicamente a sinistra e che poi c'ha dei tifosi di una certa diversità, che sono degli alternativi, ci sono degli anarchici, ci sono degli squatter, ci sono dei punk, è comunque una curva molto colorata che si esprime anche in un modo diverso rispetto ad altre curve. Insomma, in modo diverso, abbiamo visto un lancio di un bicchiere di birra verso il guardaline poche settimane fa, però credo che sia stato un evento isolato, nel senso che comunque è una tifoseria pacifica ma particolarmente creativa? Direi così, di sicuro il lancio del bicchiere di birra è accaduto nella partita contro lo Schalke 04, è stato da uno dalla tribuna, queste cose non si possono mai escludere, del resto e poi non è successo tanto, ma è comunque una tifoseria sicuramente pacifica che si esprime in un modo alternativo, come sono, che hanno per esempio come tema il teschio, mm-hmm, la bandiera dei pirati per esempio. Ok, e il teschio, i pirati, i colori sono i colori marroni, quelli della squadra, però tutto questo alternativo nasce dalle origini di questa squadra, ce la vuoi raccontare? L'importanza di San Pauli per una per il quartiere e per la gente che vive proprio lì al cuore della città di Amburgo risale più o meno negli anni 80, quando c'erano i famosi movimenti dei squatter nella cosiddetta Hafenstraße, che è proprio una via di San Pauli nel distretto della Luce Rossa, che era occupato dai punk anarchici, i Black Bloc, che a un certo punto, primi anni 80, 82, hanno deciso di andare anche allo stadio e di esprimersi anche là. E quindi è nata questa società alternativa che tuttora insomma mantiene fede a quello che era un po' lo spirito originario, o comunque l'appartenere al grande mondo del calcio li ha contaminati, quindi sono diventata una squadra come tutte le altre? Sicuramente non è diventata una squadra come tutte le altre, anche se bisogna dire che negli anni 2000, negli ultimi 10 anni, comunque hanno dovuto fare dei compromessi per far parte del calcio che conta, quindi sono ovviamente una una società di calcio che ha bisogno di lavorare un po' anche economicamente, di avere dei ricavi, dei giocatori validi per comunque giocare almeno nella seconda Bundesliga. Quindi sì, si sono normalizzati, però avendo una grande tifoseria che comunque riempie sempre lo stadio, che alza la voce, che parla, che comunque cerca di avere un impatto anche su come va ricostruito lo stadio, su quale pubblicità possono esporre, su quale sarà l'immagine di questo San Paoli, non saranno mai omologati e non diventeranno mai un club come tutti gli altri. Quindi San Paoli come stile di vita, quindi una tifoseria particolare, una tifoseria che partecipa attivamente anche alla gestione della società, e i calciatori anche loro insomma sono allineati, respirano un po' questa strana aria che si respira anche in tribuna, nelle curve? Questo in ogni caso, squadra e tifoseria sono magari più vicini rispetto ad altri club che vanno a festeggiare con i tifosi, che vanno ai raduni dei tifosi e che certamente festeggiano con loro, come spesso accade, soffrono anche con loro, perché ovviamente essendo un club un po' alternativo non è che giocano sempre ai vertici. Assolutamente no, anzi, quest'anno come sta andando il campionato? Sta andando male perché giocano in Bundesliga, ma molto probabilmente retrocedono. È una squadra che è più fatta per la Serie B e si sono goduti sto anno in Bundesliga, si sono tolti qualche soddisfazione, ma probabilmente sportivamente retrocedono alla fine dell'anno, però i tifosi vanno anche in Serie C con loro, ovviamente. Certo, insomma, è uno stile di vita, non si può abbandonare da una categoria all'altra. Grazie davvero, Kai. Altravita.com è il tuo blog, se qualcuno insomma vuole conoscere te e le attività che fai e come racconti la tua Germania. Ciao e buon sabato. Buon sabato e un grazie per essere stati in compagnia anche a tutti voi. La puntata finisce qua. Un grazie a Claudia Carusi, che con me ha scritto la puntata, con la collaborazione di Margherita Ina, in assistenza a Giorgio De Luca, la parte tecnica Peter Bescapè. Noi come sempre ci ritroviamo qua sabato prossimo alle 10, ma vi aspettiamo facebook.com/l'altra Europa, radio24.it per riascoltare le puntate in podcast. Ancora ciao da Federico Taddia.